Non fatevi ingannare dal numero di correnti. Ciò che conta è il risultato totale. Sommate le spinte favorevoli e sottraete quelle contrarie.